Il punto di Stefano Folli. Se dobbiamo stare a quello che vediamo, non c'è da essere ottimisti sulle sorti della neonata legislatura. Intransigente Bersani che dice in sostanza o Grillo viene a più miti consigli o ce ne andiamo tutti a casa, cioè nuove elezioni. Intransigente Grillo che deve ancora decidere come gestire il suo esercito in Parlamento, ma certo non intende scendere a patti con il nemico Bersani. Imperscrutabile Berlusconi alle prese con i peggiori guai giudiziari della sua carriera, ma proprio per questo poco propenso a tornare alle urne. Può darsi che tutti facciano la voce grossa per misurare la forza degli avversari, e di sicuro però i tempi della crisi saranno lenti, assai più lenti di quanto imporrebbe la condizione economica in cui si dibatte il Paese. Ma oltre alla lentezza manca per ora qualsiasi spiraglio che induca all'ottimismo, e il compito di Napolitano sarà davvero duro.